Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Oggi sono a Firenze e voglio andare a vedere gli Uffizi, non per andare a vedere gli straordinari capolavori che questo museo raccoglie, perché naturalmente quelli sono sempre lì, ma per poter cogliere l'occasione di vedere una mostra davvero, davvero originale, dedicata alle sculture del 400 fiorentino in legno dipinto. Noi siamo abituati a immaginare le sculture sostanzialmente in bronzo e in marmo. Siamo abituati a immaginarle del colore del bronzo e del bianco colore del marmo. Non immaginiamo abbastanza di quanto in realtà le sculture fossero colorate. Le sculture antiche, dal mondo antico, dal mondo greco-romano, per tutto il Rinascimento, erano sculture estremamente vivaci, policrome. In particolare quelle di legno e in particolare quelle prodotte a Firenze erano così colorate perché dovevano sembrare vere. I crocifissi che Donatello e Brunelleschi hanno realizzato, in particolare opere famosissime, erano riccamente dipinti, e noi sappiamo che sia Donatello, che era uno scultore, che Brunelleschi, che era un architetto, le avevano dipinte personalmente. Questo è uno degli elementi di novità che la mostra mette in campo, cioè ci abitua a immaginare questi artefici che portavano a compimento finale le loro sculture, quindi le dipingevano. Il sistema del lavoro però prevedeva anche, e la mostra ce lo racconta molto bene, che ci fossero degli scultori professionisti, quindi Desiderio da Settignano, Benedetto da Magliano, tutti i grandi scultori del 400 fiorentino, che però si rivolgevano a un pittore di professione, un pittore di scultura. Nella fattispecie Neri di Bicci è stato uno dei più attivi. I temi più diffusi erano naturalmente i crocifissi, perché nelle chiese, nei conventi, nelle case private era un oggetto di culto necessario. Poi a Firenze si specializzarono per esempio nella visione della Maddalena, che è sempre rappresentata con estremo realismo nel suo dolore del pentimento. E poi dobbiamo immaginare anche i grandi altari, e una chicca finale che nessuno immagina è che il Tondodone di Michelangelo, che è una pittura come tutti sanno, in realtà è stato circondato da una cornice originale particolarmente ricca, intagliata da Francesco del Tasso. Quindi il grande Michelangelo si affidava a un intagliatore per incorniciare il suo capolavoro.